Non piangere più, sei in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso dove c'è mia fanciulla nascosta. gelida manina se la lasci riscaldar cercare che giova al buio non si trova ma per fortuna aspetti signorina le dirò con due parole chi sono chi sono che faccio come vivo chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo. In povertà mia lieta sono da gran signore. Prima di d'amore per sogni e per crere per castelli in aria l'animo migliore aria torre del mio entrare con voi pur'ora ed i miei sogni usati e i miei sogni miei costosi rieguare ma il furre Thank you.

Eppure tutto la cor mi parla. pace fuori di qui, dove trovarla? Tu sei bella, ascolto qui va venire, ritmo bella gloria, amor, il dolce aprile. Quale incanto nel risveglio di fior, perché sei tu